Reggerà questo governo? Saperlo. A oltre 2 settimane dal voto in Emilia-Romagna, che avrebbe dovuto essere dirimente, ancora non si capisce nulla. Ieri Renzi ha minacciato la sfiducia al ministro della giustizia Bonafede, il che sarebbe, lo sapete, un atto politico durissimo e presumibilmente l'avvio di una crisi. Il tutto in ore nelle quali iniziavano le prime riunioni sull'agenda fino al 2023 e venivano diffusi i dati sulla produzione industriale che torna a scendere dopo 5 anni di crescita. È un momento di grande incertezza. Lo è per tanti motivi, a partire dalla comprensione degli effetti e della dimensione del coronavirus. I morti sono più di 1000, aggiornamento di stamattina, i contagiati accertati oltre 42.000, ed è difficile capire l'estensione sanitaria e l'impatto che questo avrà sull'economia italiana e mondiale, con l'OMS che la dichiara emergenza globale. Spicci di giornata: gli insulti razzisti e le botte a un ragazzo italiano di origine senegalese a Palermo, la tempesta Ciara arrivata sull'Europa con venti fortissimi e 7 vittime, l'indagine interna sui 634 dipendenti o parenti di dipendenti Rai imbucati all'Ariston per Sanremo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ve lo dico in apertura di trasmissione, ancora prima di salutarvi, che francamente non se ne può più. Non se ne può più. Abbiamo votato, c'è stato il voto per le regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Si era detto che quello sarebbe stato il discrimine da quel momento in avanti, a seconda di come sarebbero andate le cose. Insomma, tutto si sarebbe mosso. Con la vittoria del PD in Emilia-Romagna il governo sarebbe andato avanti, avrebbe ricominciato a lavorare e però, devo essere franco, gli effetti qua non si vedono, non si vedono. Sospesa la questione Ilva, sospesa la questione Alitalia. Iniziano i tavoli sull'agenda per il 2023, i tavoli, Ieri c'è stato il primo tavolo sull'agenda per il 2023. Il tavolo su occupazione e politiche di welfare, al termine del quale si è deciso di suddividerlo in altri 5 tavoli. E così via, Si suddivide. Facciamo un mini tavolo solo sulle pensioni e poi un micro tavolo sulle pensioni di anzianità. Arriviamo al tavolo del bosone. Ci si muova, ci si muova. Le vostre voci al 349-238-6666 via SMS o WhatsApp audio, soprattutto. Fatemi sentire la vostra voce anche su questo, anche e soprattutto su questo. Oh, e non venitemi a dire, perché ogni tanto qualcuno lo fa: "Spezia, hai messo la bandiera leghista?" Perché, se vogliamo essere chiari, uno dei problemi è esattamente quota 100, provvedimento bandiera della Lega. E l'ultimo dei nostri problemi in questo momento sono gli sbarchi di immigrati, giusto per essere chiari, Perché se i dati della produzione industriale ci dicono quello che ci dicono, se gli effetti anche economici del coronavirus possono essere quelli che sono, non per fare del benaltrismo, ma i problemi sono altri, non certo gli sbarchi. Quindi ci mettiamo dentro tutti. Un governo che ci pare piuttosto fermo, Dunque, martedì 11 febbraio, buongiorno, scusate lo sfogo. È che non se ne può più. Tutti questi tatticismi anche sulla prescrizione. Arrivatene a una, per favore, arrivatene a una. Siamo anche in diretta su Facebook, naturalmente, ci trovate su Twitter, su Instagram, e su Instagram, come sempre, aspetto le foto della vostra mattina, della vostra colazione, quello che vedete dalla finestra, dal finestrino, da dove volete, per raccontarci, per questo racconto collettivo della mattina degli ascoltatori di Radio 24. Filippo Oreggi regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, come sempre. Andrea che urla "voglio Sanremo". Adesso, fino a ieri dicevate che non ne volevate sentire parlare, adesso improvvisamente "voglio Sanremo". Va bene, e però questa prescrizione c'è, potrebbe mettere in crisi il governo, Renzi minaccia la sfiducia a buona fede, perché? Perché pare che la maggioranza, cioè i 5 Stelle, vogliano mettere le modifiche alla prescrizione all'interno del decreto mille proroghe, che già di suo il decreto mille proroghe è una cosa incredibile all'italiana, cioè il fatto che esista un decreto mille proroghe, però vabbè, insomma, non entriamo anche in questo. Comunque, dice Rosato Italia Viva, la soluzione non è accettabile. Via! Noi abbiamo la coscienza di di lavorare per una cosa importante, cioè il tema dei diritti dei cittadini che sono in discussione con una riforma profondamente sbagliata presentata nel precedente governo. Oggi la soluzione che è stata messa in campo è considerata incostituzionale da chiunque ne abbia cognizione sotto un profilo giuridico, e quindi noi non la consideriamo accettabile, in particolare inserita all'interno di un decreto legge. Su questo saremo conseguenti. E a chi accusa Italia Viva di mettere bandierine, Boschi, Marianela Boschi, replica: la bandierina l'ha messa il Movimento 5 Stelle. Per loro l'importante è mantenere la bandierina della prescrizione, perché di fatto questo è la bandierina, la sta mettendo il Movimento 5 Stelle sulla prescrizione, forse anche perché sono un momento non particolarmente facile all'interno del loro partito e quindi hanno bisogno di mantenere in qualche modo questo principio. Se ne assumeranno la responsabilità. Noi diciamo da mesi, l'abbiamo detto in modo trasparente, che non eravamo d'accordo. Abbiamo presentato una proposta che non è di cancellare tout court la prescrizione di buona fede, ma di dire troviamo una soluzione migliore, facciamo funzionare davvero i processi. Nel frattempo però fermiamo la riforma buona fede, perché così non funziona, e poi quindi se ne assumeranno loro la responsabilità. Hai sbroccato, chiede Giovanni? No, però ho iniziato a stancarmi un po' anche di queste chiacchiere. Per carità, ragazzi, parliamoci chiaro, la questione della prescrizione è una questione importante, non che non sia importante, è una questione che mette in gioco tutti i ragionamenti sulla civiltà giuridica, su quanto deve durare un processo. Ne abbiamo parlato ieri, mi sembra tra l'altro molto bene, con un magistrato e un avvocato, con Ardita e Cagliazza alle 8:20. Andatevi a prendere il podcast della trasmissione di ieri con Maria Latella, perché secondo me i punti sono importanti, non che non sia importante. Il problema è quel che è fermo. A fronte, per esempio, della questione del coronavirus. Siamo, come si diceva e come avete sentito in GR24, a 42.000 infetti accertati. Sono quelli accertati, mi raccomando, Magari c'è un sacco di gente a casa in Cina, questo non lo possiamo sapere, ma secondo le proiezioni matematiche pubblicate da autorevoli riviste esattamente così, ci sono a casa con qualcosa che potrebbe essere un sintomo influenzale, magari è il coronavirus, ma non lo sanno perché rimane in forma leggera. 1.000 vittime. E poi l'impatto economico di tutto questo. Il ministro dell'economia, Gualtieri. Proseguiamo con la linea di massima precauzione, perché il nostro primo obiettivo è quello di tutelare la salute dei cittadini italiani, e poi stiamo monitorando con attenzione l'impatto del coronavirus sul sistema economico e stiamo definendo una serie di misure per sostenere i settori più coinvolti dal virus. Una questione che racconta il presidente del Veneto, Luca Zaia, il cui coinvolgimento diretto, per così dire, è soprattutto relativo alla città di Venezia, no? Insomma, quest'anno si attendevano 4 milioni di turisti cinesi. E già Federalberghi, l'altro giorno, lo ricorderete, ci diceva 400.000 persone previste per febbraio, presumibilmente... Non ce ne saranno proprio, insomma, in febbraio di turisti cinesi, e c'è il carnevale a Venezia. E Zaia. Il coronavirus pesa moltissimo, visto e considerato che stiamo parlando anche qui di un cataclisma che arriva ad esempio a Venezia dopo la partita della grande alluvione. Abbiamo già avuto una comunicazione negativa purtroppo a livello internazionale sull'alluvione, ci sono ancora cittadini del mondo che pensano che a Venezia ci sia l'acqua nei palazzi. Dall'altro, il coronavirus, comunque, con i blocchi aerei e con tutto quello che ne deriva, deprime ancora gli arrivi. Spero che tutto questo passi e si torni alla normalità. Scusa l'attesa, Marta Serafini del Corriere della Sera, ma oggi, come mi dice Giovanni, ho sbroccato. Ciao Marta, eccoci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come stai? Buongiorno. Bene? Bene, bene, condivido il disagio, ma così. Bene, ottimo. Ascolta, invece ti volevo coinvolgere innanzitutto su questo tema della tensione tra Italia e Cina, esattamente per il blocco dei voli. Insomma, qua mi sembra che emerga una posizione che... del governo, che è un po' complessa, no? Perché se da una parte siamo l'unico paese europeo che ha sostanzialmente aderito alla Belt and Road Initiative, così si chiama, che è la nuova via della seta, questo grande progetto che non è solamente economico, ma è un progetto, se vogliamo, quasi di dominio geopolitico della Cina, dall'altra parte siamo l'unico paese europeo che ha fermato i voli, o quantomeno il primo, no? Esattamente, questa è una questione interessante anche perché, vista dal nostro punto di vista italiano, che ovviamente è un punto di vista molto parziale sulla vicenda, sulla questione coronavirus, però è interessante perché insomma va detto che in questo caso sicuramente la questione affari e sull'adesione insomma così al progetto economico c'è sicuramente da parte di questo governo e soprattutto del ministro Di Maio un'attenzione particolare, a fronte di questo però è stata fatta una scelta poi invece come dire molto, molto severa sulla questione voli, e che sia giusto che sia sbagliato questo ovviamente è difficile dirlo, ma neanche, non è neanche giusto, nel senso che poi sono decisioni i cui risultati vedremo anche nei prossimi giorni, perché insomma l'epidemia è sicuramente difficile da prevedere, anche quella che sarà sì. Poi lo sviluppo, è difficile capire quelli che saranno anche poi, stiamo già vedendo un impatto economico non indifferente, sono stati cancellati tantissimi eventi, si parla anche di eventi sportivi, quindi a livello internazionale ovviamente parlo, quindi è qualcosa che sicuramente avrà e ha già un riflesso economico, però scelta che viene fatta, e credo che in questo momento la prudenza sia la prima cosa. Sì, certamente, ma secondo te, allora, su un po' su tutti i giornali leggiamo in queste ore di una Cina infastidita, no, da questa decisione italiana. Insomma, questo fastidio della Cina, secondo te, fino a dove può arrivare? È, come dire, una cosa, è qualcosa di passeggero o, insomma, non dimenticano? Beh, no, intanto ricordiamo che ieri il presidente Xi Jinping per la prima volta è comparso in pubblico con mascherina misurandosi la febbre, quindi insomma anche loro, anche la Cina deve fare come dire i conti con questa cosa, e stiamo parlando insomma di un paese molto particolare con un rapporto con la comunicazione e la libertà di informazione particolare, quindi questo sicuramente il fastidio che ci sia è anche questo tra virgolette normale, se si può parlare di normalità in questa situazione. Dopodiché però stiamo anche parlando di una scelta di un paese sovrano che ha deciso di proseguire la linea della massima prudenza. Ripeto, se è stata una scelta eccessivamente prudente o meno lo vedremo nei prossimi mesi, giorni. Ah sì, sicuramente. È difficile dirlo adesso, sì. Anche perché oggi insomma si parlava anche di critiche ai paesi limitrofi o ai paesi anche africani, limitrofi alla Cina, dove non sono stati segnalati casi di coronavirus. Ecco, sistema, ecco Marta, tema sì. Enorme quello dei paesi africani, sui quali ti vorrei sentire dopo il traffico. Mattino. Quando si ha un alleato di governo che tutto fa a meno che collaborare, cercare un'intesa, ma fa soltanto i propri interessi mettendo paletti, è difficile andare avanti, considerato che questo alleato ha la capacità di far cadere il governo, quindi fortemente può ricattare molto efficacemente. Il governo non governa, fa tavoli, non decide. Certo, in soccorso gli è arrivato purtroppo, molto purtroppo, il coronavirus e tra l'altro anche Sanremo. coronavirus e Sanremo a coprire un po' di inazione. E voglio rispondere all'SMS anche di un'ascoltatrice che dice: mi rincresce sentire come un conduttore equilibrato come lei ci dica, per difendersi da chi l'accusa di essere per Salvini, che il problema è quota 100, che aiuterebbe tante di noi che sono ormai anziane, caregivers da sempre, con la speranza di prendersi un poco di serenità. Ebbene, quota 100 la potevi fare per singole categorie, pensando magari esattamente a voi e lasciando fuori, per esempio, la grandissima quantità di statali che sta usufruendo di quota 100. E non mi venga a dire che stare in un ufficio di un comune di 5.000 abitanti per una vita è un lavoro usurante, perché non ci credo. Tutto questo per, diciamo, dare un discreto squilibrio ai conti pubblici. E ha ragione anche lei, il fronte reddito di cittadinanza, ne abbiamo parlato ieri, anche là ci son discreti problemi, soprattutto al lato dell'offerta di lavoro, ma non solo. Comunque, è tutti i temi che dovrebbero essere sul tavolo e che è sperabile che si affrontino. Ci ha raggiunti Susanna Esposito, che è presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive. Non ci ha ancora raggiunti, a dire il vero. Ci ha raggiunti. Susanna Esposito, presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e Disordini Immunologici e ordinaria di pediatria all'Università di Parma. Professoressa Esposito, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, in questi giorni quello che stiamo cercando di fare è, a rischio a volte di essere ripetitivi, e insomma me ne dispiace, però ci vuole in questo momento, è cercare di capire, di aggiornare quasi quotidianamente cosa ne sappiamo oggi in più rispetto a ieri. E c'è una cosa che sta circolando tantissimo, professoressa Esposito, e voglio partire da questa, sul coronavirus naturalmente, ed è la seguente: la resistenza sugli oggetti, perché è chiaro che questa è una cosa che mette un po' paura, un po' più paura a tutti quanti. Cosa ne sappiamo? Perché è circolata ieri, è andata in giro molto sui social, insomma, cosa sappiamo? Diciamo che è quello che sappiamo già per molte infezioni respiratorie, nel senso che è noto che virus che si trasmettono appunto attraverso le secrezioni respiratorie possono trasmettersi anche per contatto, motivo per cui noi ad esempio quando ricoveriamo i bambini sappiamo che in molti casi li isoliamo quando hanno infezioni ad esempio da virus respiratorio sincitiale o da virus influenzali, perché determinati virus possono persistere sulle superfici di contatto e quindi essere poi trasmesse appunto attraverso il contatto con le mani con oggetti contaminati. Quindi è un'informazione aggiuntiva che ci permette ancora una volta di sottolineare l'importanza della prevenzione e a riguardo il fatto che il lavaggio delle mani è un qualcosa di fondamentale per evitare che determinate infezioni possano trasmettersi, sì. Ovviamente pensando a un lavaggio che duri almeno 20 secondi. Lavarsi le mani e lavare gli oggetti, quindi, professoressa. Sì, assolutamente. Ok. Allora, adesso cosa ne sappiamo di più rispetto a una settimana fa su questo coronavirus? Ossia, dal punto di vista di quello che vediamo in giro, la paura che circola, le persone che si automettono in quarantena, penso ai cittadini cinesi che vivono nel nostro paese, insomma, c'è un po' di psicosi. Che cosa possiamo dire su questo? Ma io penso che innanzitutto possiamo dire che è stato documentato come le misure di prevenzione che consistono effettivamente anche nella quarantena dei soggetti a rischio, quindi dei soggetti che sono stati in Cina nell'ultimo periodo e quindi fondamentalmente focalizziamo l'ultimo periodo sulle due settimane precedenti, sono misure fondamentali per evitare i contagi, perché abbiamo visto poi che i contagi in Cina sono stati tantissimi. Quindi il concetto relativo al numero elevato di morti anche superiore alla SARS in realtà va rapportato a un denominatore che è quello relativo al numero dei casi, che è stato molto elevato considerando che tutta la popolazione è suscettibile, quindi a differenza di altri virus per cui la parte di noi sono già protetti, qua tutta la popolazione è suscettibile, quindi la mortalità sì. Si assesta sulle percentuali che sappiamo. Quindi 2-3% Esposito? Sì, 2,7%. 2,7% la mortalità, ma calcolata sui casi accertati o sui casi ipotizzati, ossia tutta quella gente che della quale non gli è stato fatto il tampone, la dico semplice, brutale, e che però magari è a casa con quello che pensa essere un raffreddore e magari è il coronavirus. Certo, questa non è stata calcolata nel 2,7%. Ok, quindi potrebbe essere ancora più bassa la mortalità. Sì, però non sottovaluterei in ogni caso un virus che determina così tanti casi, perché se noi consideriamo 60 milioni di italiani tutti malati e se consideriamo anche il 2,7% dei morti, ci rendiamo conto che parliamo di più di 1 milione di soggetti deceduti. Certo, quindi certamente. Questo lo dico per sottolineare come a fronte di un virus nuovo sia importante mettere in atto tutte le misure preventive e far sì che i soggetti comunque con qualsiasi sintomo di tipo infettivo, indipendentemente dal fatto dell'avere o no il coronavirus, ma anche altre infezioni, siano comunque isolati. Quindi questo penso che sia un punto importante, e questa epidemia ci ha permesso di riflettere su quelle che sono le misure di protezione individuale per proteggersi nei confronti delle infezioni respiratorie. Abbiamo professoressa Esposito, la fermo, abbiamo ancora 30 secondi, abbiamo ancora Marta Serafini del Corriere della Sera in linea con noi. Marta, abbiamo lasciato in sospeso la questione dell'Africa, del fatto che là, insomma, le verifiche sanitarie ovviamente sono molto problematiche, e dall'Africa non sappiamo niente, però sappiamo che la presenza cinese è fittala. Assolutamente, Africa e anche i paesi limitrofi alla Cina, nel senso che è da lì che sono arrivati poche segnalazioni di contagi, quindi questo sicuramente è un'allerta, un allarme, perché comunque va tenuto presente, come diceva prima anche la professoressa. È chiaro che se ci basiamo poi su delle statistiche, su dei numeri, però bisogna tenere anche in considerazione qual è il numero dei casi accertati, e questo rende sicuramente, insomma, le cose più difficili, immagino, anche per la ricerca, immagino per trovare poi quella che può essere una soluzione. E questo, insomma, ci sta dimostrando come sempre di più, poi, ma questo è abbastanza lapalissiano, le comunicazioni e il fatto anche magari che alcuni governi, alcuni regimi non comunichino all'esterno, questo crea un problema, e lo crea sempre di più in un mondo che è sempre più interconnesso, certo, quindi con sempre più alti. Stiamo dicendo delle cose ovvie, però è così, nel senso che abbiamo visto anche il caso l'altro giorno dello chalet in Alta Savoia, dove c'era un gruppo di britannici, di cui uno aveva fatto un viaggio a Singapore. Quindi che ormai è praticamente impossibile pensare di isolarsi completamente. No, certo. Quello che dicevi anche della questione voli, però è chiaro che se in momenti come questi c'è chi non comunica, non controlla, è finita, diventa complicato. Grazie Marta Serafini del Corriere della Sera, grazie Susanna Esposito, presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e Disordini Immunologici, ordinaria di pediatria all'Università di Parma. Ci fermiamo, dopo il GR ci ritroviamo con la rassegna stampa. Partiremo da questa storia degli imbucati di Sanremo, 634 tra dipendenti, parenti di dipendenti. A tra poco.